peso nella mente, sto confuso tra la gente, mi metto al centro dell'attenzione, faccio spesso un figurone, imitando le persone, lo sfotto sai che passione, ma fumando continuamente, ho capito che sono dipendente. Tra di noi come religione, sento che nell'imminenza dentro di me